Palla spicchi con Carlo Genta. Con quell'intercetto ha negato due punti facili a Siena. E questa è una cosa importante, perché canestri facili su questo campo a Siena è meglio non concedere, sennò poi prendono entusiasmo e ti spazzano via. Eh sì signore, è iniziata la finale 8-5 per Siena su Milano, gara 1, 6-58 da giocare nel primo quarto. C'è in corso anche Germania-Australia, però permettetemi una piccola soddisfazione, quella di essere qui in tempo di mondiali mentre c'è una partita in corso a parlare di basket. Benvenuti su questa isola che resta nello sport. C'è il Gran Premio oggi, insomma, tante altre cose mangiate dai mondiali di calcio. Benvenuti sull'isola dei tutt'altro che famosi. Benvenuto anche ad Angelo Costa, mio amico del Resto del Carlino. Ciao Angelo. Buonasera, siamo in pochi, lo so, ma buonasera a quei pochi che ci sono. Anche perché ci voleva una bella fantasia per piazzare la finale scudetto in tempo di mondiali. Non mi vengano a raccontare che non c'era tempo di farlo prima. Beh, intanto se tu hai parlato di grandi eventi, te ne aggiungo un altro, c'è la finale di Lega Dilettanti, gara 4, con Forlì avanti 2-1, in questo momento Bologna conduce per 10-4, quindi ti do un piccolo parziale che nessuno vede, ma qui stanno guardando anche questo in TV piuttosto che i mondiali. Quanto alla fantasia, beh, io rivolgo anche domani un invito alla FIFA, perché anziché dare i mondiali e le date con 6 anni di anticipo, non siano così frettolosi e lo facciano almeno con un quindicennio, così almeno arrivano anche i nostri dirigenti a studiare una programmazione adeguata. Quindi. Sì, no, ma poi non possono dirmi ma c'erano le coppe europee, ma non è possibile non fare turni infrasettimanali, c'è una programmazione lungimirante, Angelo. Oggi ci avrebbe dato Germania, Australia, per chi la vuole, e per chi non la vuole anche niente, anche un cinema o una pizza, però non gara 1 della finale scudetto. Sono d'accordissimo, anche perché qualche data poi si era creata durante il campionato con la riduzione delle squadre eccetera eccetera, poi perché comunque questi sono playoff sfortunatissimi, perché già sono partiti con il secondo turno dei quarti, se non ricordo, nel giorno della finale dell'Inter, sì. E quindi hanno dovuto giocare al pomeriggio, poi vanno molto di lunedì eccetera, che sono serate dove la gente non frequenta. Voglio dirti, tu stai toccando un tasto rubato da tanto tempo. Il problema della pallacanestro è la visibilità. La Lega, mi ha spiegato anche il presidente Renzi, è molto concentrata adesso sul crearsi una televisione interna, una web TV. Sono d'accordissimo, ma con questo caldo io credo che non siano in tanti davanti al computer a vedere i riflessi filmati, a vedere le cose. Servono anche altri tipi di attenzione, ed è un peccato, perché alla fine di questo campionato magmatico, indecifrabile da tanti punti di vista, è venuta fuori forse la finale più nobile, perché bene o male in finale c'è Milano, che secondo me è una piazza che deve stare ad alto livello, perché come deve starci Roma, sono le grandi piazze, come tu sai, che trainano. Sì. Che aspettavamo in semifinale, invece in semifinale c'è arrivata la meravigliosa Caserta. Milano, due finali in due anni piuttosto chiuse, perché mi aspetto siano piuttosto chiuse queste serie di finali, e penso di non essere smentito. Eliminando peraltro l'anno scorso Teramo e Biella nell'ordine, bravissime, quest'anno Montegranaro e Caserta altrettanto brave, però mai un incrocio con una big. Anche questo può essere un tema. Intanto, per chi vuole, segna la Germania, Podolski dopo 8 minuti di gioco, Germania 1, Australia 0. Ma adesso voglio parlare di basket, perché calcio ne ho parlato dopo pomeriggio. Domani sera c'è l'Italia, torneremo a parlarne dalle 9 alle 11 e mezza, quindi tutto il tempo che volete. Adesso c'è il basket. Risponde come Terrell McIntyre, tirato a lucido per queste finali dopo un'altra stagione caratterizzata da diversi acciacchi. Hall scambia con Finley, sale Rocca a portare il blocco, pronto l'aiuto di Eze che poi deve recuperare su Rocca, la palla è per 15-12, 4:40 da giocare nel primo quarto. Dura far volare la fantasia, caro Angelo. No, è dura, però io credo che quella di stasera, e lo dicevo oggi con un paio di colleghi, sia la partita chiave di questa finale, perché se Milano dovesse mai sorprendere Siena in casa, beh, cambierebbero tanti equilibri. Ricordiamoci che Siena è sì il rullo compressore, ma è un incrocio, come dicevi prima, un 3-0 per arrivare in finale tranquilla eccetera eccetera, però Siena l'anno prossimo non sarà più questa Siena. Questo può avere anche così minato qualche certezza, avere un po' distratto anche i giocatori e tolto un po' di compattezza, può essere la speranza Piazza di Milano, che peraltro secondo me ha già vinto lo scudetto dei misteri gaudiosi, perché io quest'anno Milano non sono riuscita a decifrarla in nessun modo, ma credo neanche voi. Ha fatto squadra, ha mischiato tutti in tutte le maniere, persino in semifinale, dove delle volte abbiamo visto Mancinelli giocare, delle volte Mancinelli non giocare, delle volte giocare Maciulis, non giocare Maciulis, però alla fine lì. E quindi evidentemente se funziona anche questa alchimia, Angelo, in finale. Allora io ti dico due cose. La prima, ho seguito Siena e l'ho vista anche a Cantù sabato scorso. Siena che peraltro ha avuto una settimana secca di riposo, l'ultima partita l'ha giocata sabato scorso alla sera, mentre Milano si è spremuta per quanto possibile la serie contro Caserta fino all'altro ieri. Onestamente ho seguito sul campo sia la serie di Cantù quella partita che la serie di Milano. Ti dico, l'intensità dell'una e dell'altra è diversa. Seconda cosa, Milano contro Caserta, semplicemente per la legge dei numeri, no? Più giocatori da ruotare. Caserta si è spenta come una lampadina su quel canestro da tre punti di Jumaine Jones domenica scorsa, partita che poteva cambiare il film di quella serie. Invece lì è finita Caserta, ho l'impressione, lì è finita l'energia di Caserta. Forse Caserta era meno pronta rispetto a Milano a una sfida di questo genere, anche la lunghezza, perché bene o male, ricordiamo, appunto, hai detto tu, è la seconda finale consecutiva di Milano, quindi ha saputo arrivarci anche l'anno scorso. È vero che l'intensità è diversa, è vero che Siena è capace di cambiare marcia in qualsiasi momento, lo può fare nel secondo, lo può fare nel terzo quarto, però ripeto, è proprio sulla costanza di rotazione che ha avuto quest'anno, o forse l'insistenza nelle rotazioni che ha avuto quest'anno Bucchi, che può trovare una chiave a questa partita, che magari mischiando i quintetti diventa meno decifrabile e magari anche più lungo a livello fisico, anche se effettivamente sì, stiamo parlando di utopie, nel senso che le distanze fra queste squadre restano ancora lontane. Sì, gli applausi agli sconfitti la settimana scorsa li abbiamo fatti a Cantù, che resta secondo me dopo Siena la squadra in Italia che gioca meglio a pallacanestro in senso compiuto, no? Una pallacanestro fatta di operai, però è una squadra vera, è una squadra vera. Abbiamo visto contro Caserta, contro Siena, ti parlavo di intensità che Cantù ha messo in quella serie andando oltre i suoi limiti, poi con Siena onestamente non ce n'è per nessuno. Oggi è il momento dell'applauso a Caserta, che ha invece una squadra molto diversa, più talentuosa, ma troppo corta per sognare oltre quello che ha sognato. Sì, sono d'accordo. Cantù mi è piaciuto tantissimo a livello di gioco, a livello di impostazione. Mi è piaciuta meno a livello di tradizione, ma questo è un difetto mio. Io purtroppo quando leggo Cantù leggo la scuola italiana degli Innocentin, degli Antonello Riva eccetera, e qui non vedere neanche l'italiano mi fa un po' specie. E Caserta è quella squadra lì, è una squadra che ha talento, è una squadra che, come dicevi, si è spenta sulla lunghezza di una panchina che qualcosina ha dato, ma doveva dare molto di più e forse non ne aveva neanche da dare. È stato un grande campionato quello di Caserta, chiuso al secondo posto, quindi direi che è una squadra sulla quale l'anno prossimo possono lavorare proprio innestando e non rivoluzionando. 22 a 17, 2:53 da giocare nel primo quarto, tre punti di McIntyre che ha iniziato col sangue agli occhi questa partita di finale, mi pare. McIntyre per me è un tasto doloroso. Dove va? Lo so, dalla tua Reggio Emilia. Dove va McIntyre? Ma McIntyre è andato via dalla mia Reggio Emilia, questo mi fa molto male, anche perché è storia ormai... vecchia. Senti, ma se ti dico Terrell McIntyre che accompagna sull'aereo Simone Pianigiani in Grecia all'Olympiakos? Ma io non credo che Pianigiani lasci Siena. Non credo. So che l'Olympiakos sta facendo delle offerte pesanti, credo che sia andato attorno anche a Ettore Messina, che comunque a Madrid fortunatamente ha l'occasione di costruire un Real più a sua immagine e somiglianza di quello che non abbia avuto nell'ultima stagione, quindi probabilmente andrà avanti. Io dubito che con gli impegni della nazionale che ha e anche col discorso che hanno avviato a Siena, i giocatori che stanno contattando, eccetera, Pianigiani cambierà qualcosa. Io piuttosto vedo McIntyre che vada, se non in Grecia, dove danno molti soldi, anche all'Efes, che gliene stanno offrendo altrettanti, perché anche l'Efes sembra uno degli ultimi paradisi per questo sport che sta cercando finanze non solo in Italia ma ormai in tutta Europa. Canestro di Rocca su assist di Finlay, Milano rimane aggrappata con le unghie a questa partita. Gara 1 di finale, 22-19. Canestro a tre punti di Mordente ed è 22 pari. Beh, bravissima Milano in questo primo quarto. Milano che rimane lì con Siena, che aveva provato a scappare. Il problema è farlo altri 30 minuti. Farlo altri 30 minuti, non c'è dubbio. Sì, devi giocarne. Per i primi 10 km in bicicletta stiamo anche in gruppo. Stiamo in gruppo con Contador. Poi, quando Contador comincia a pedalare sul serio, allora ciao. Palla spicchi. 24-22 per Siena su Milano, 53 secondi alla fine del primo quarto di gioco. Prima di salutare Angelo Costa, Angelo, tu lo conosci bene, Mancinelli, lo vedi l'altra sera contro Caserta spaccare la partita, ti chiedi ma dov'era? Sì, Mancinelli è un giocatore che va tenuto sotto costante pressione, un giocatore che ha questi alti e bassi, però forse ha bisogno di fiducia continua e magari in un sistema come Milano molto allargato di giocatori non sempre riesce a trovarla. E io vedo Mancinelli in quello della partitona che ha fatto, anche se quella è stata veramente, non dico perfetta, ma quasi, che non il Mancinelli che scompare, ecco, più avvilito. Piuttosto mi stavo chiedendo una cosa, tu hai detto 24-22 ma non l'hai raccontata tutta, perché ho appena visto un intervento stranissimo di Stonerook che gli arbitri hanno totalmente ignorato. Adesso mi chiedo se in tutte le finali Stonerook può fare sempre quello che vuole, tutto lì. Grazie Angelo, a presto. Ciao, buona serata. Tema che lasciamo alla vostra fantasia. Alla fine del primo quarto. E questo è un altro aspetto della grandezza del Monte Paschi, non sta tanto lì a pensare all'errore appena fatto. Bichitera ha perso una palla banale, non da lui, contropiede dall'altra, non importa, ci sono 5 secondi, si fa in tempo a rimettere in fretta e andare a prendere un fallo dall'altra parte. Molto bravo qui Molleri a evitare il contatto. Sul canestro di Monroe, 26-24 e siamo quasi in chiusura di un primo quarto comunque bello, interessante, intenso. Per voi è la voce più nota del basket, per me è diventato, oltre che un amico, l'uomo del giorno dopo. Mi accompagna a giorni alterni all'alba. Flavio Tranquillo, buonasera. Buonasera. Stanotte mi farai compagnia dalle due in poi per una finale NBA, una finale NBA che mi piace da impazzire. Ne parliamo tra un attimo. Prima voglio una tua sensazione su questo primo quarto della nostra finale. Ma direi che la sensazione sta nel punteggio finale. 27-24, sono 51 punti totali segnati, sono tanti. So dirti se fa più il bene di Milano o più il bene di Siena. So che sono sorpreso, dubito che Milano riesca a giocare 4 quarti a 24 di media in quel di Siena, però di sicuro questa è la fotografia di un'intensità che per ora non è da finale. No, intensità che finora non è da finale, che non abbiamo visto neanche in semifinale, ad essere onesti e con tutto il bene che vogliamo soprattutto a Caserta. Sì, decisamente, però il Monte dei Paschi è questo da un punto di vista di punch proprio, allora l'Armani Jeans può provare a giocarsela per davvero. Normalmente il Monte dei Paschi, e soprattutto lo fa proprio nei primi 4-5 minuti del secondo quarto e nei primi 4-5 minuti del quarto quarto, gira due o tre viti che sanno molto bene dove stanno, e a quel punto la partita cambia. Se non cambia è decisamente un ottimo segnale per l'Armani Jeans. Intensità che invece è la parola chiave che mi fa definire meravigliosa la finale NBA. Tecnicamente abbiamo visto di meglio, probabilmente, Flavio. Dal punto di vista dell'emotività, io trovo questa serie di finale certamente la più bella degli ultimi anni. Guarda, ne parlavo oggi perché ricordavamo con alcuni colleghi quando c'è stata gara 7 l'ultima volta, c'è stata nel 2005 tra Detroit e San Antonio. Secondo me quella è stata una serie cestisticamente straordinaria, assolutamente a livello paradisiaco. Meglio di questa per contenuti, però questa che vada a gara 7 o si fermi a 6 partite, perché almeno 6 sono garantite dal punto di vista delle sensazioni, delle emozioni, delle metasensazioni, ha veramente qualcosa di particolare, sono d'accordo. Sembrano due pugili alla 12ª ripresa che non ne hanno più tantissima, no? Eppure continuano a sferrarsi. Un pugno uno, un pugno l'altro, nessuno dei due vuole andare giù. Sì, è l'immagine giusta, anche perché uno dei due pugili, i Celtics, è molto bravo ad incassare e soprattutto ha la difesa che è un'ancora di salvezza sempre, anche quando in attacco giochi in maniera semplicemente normale, anche quando l'ispirazione è letteralmente quella che è, se tu hai sempre la difesa su cui appoggiarti, qualche cosa di buono succede in linea di massima sempre. I Lakers non hanno questa continuità, però hanno un'altra cosa, sanno stare in campo su questo palcoscenico, ormai è la terza finale in altrettante stagioni per questo gruppo, e il mix di queste due cose fa sì che anche quando non si segna tanto, anche quando succede, non si attacca benissimo, c'è sempre qualcosa da vedere. Certo. L'impressione è che i Celtics abbiano bisogno per vincere una partita di qualcosa di straordinario, siano Ray Allen che segna dagli spogliatoi per 8 volte in fila, sia la partita di Baby Davis l'altra sera, però qualcosa di straordinario serve ai Celtics, ai Lakers no. Sì, finora è stato decisamente così, però adesso io la vedo come una serie che dura 48 minuti, credo che chi vince gara 5 vince la serie, poi magari per l'ennesima volta in questa finale sarò e saremo tutti smentiti, ma io credo che sia così. E onestamente, giocando a Boston e per quel discorso sulla difesa, potrebbe anche venirne fuori una partita che vinci, non dico con 80, ma con 85 punti magari. E allora a quel punto diventa meno importante qualsiasi considerazione tecnico barra tattica, e diventa importante invece quella ambientale. Senti, ma molti si saranno chiesti, avranno cercato una spiegazione che possa essere tecnica, fisica, tattica, emotiva su Ray Allen che gioca una partita di quel tipo e che poi improvvisamente non vede più il canestro neanche dipinto. Ma io penso che la differenza tra gara 2, quella delle 8 triple, e gara 3, quella dello 0 su 13, sia che in gara 2 ha speso talmente tanto che poi ha avuto grossi problemi. Se andiamo a vedere l'insieme di questo e del fatto che naturalmente la difesa dei Lakers che gioca un po' a comando, gioca un po' quando è stimolata e se è stimolata, ed è stata diversa in gara 3 rispetto a gara 2, ha prodotto quello 0 su 13. Il problema è che Ray Allen ha tempo perso quando non si occupa di tirare, di provare a segnare, in linea di massima sta marcando uno col numero 24. Sì, questa è una differenza della pallacanestro rispetto a molti sport che ogni tanto ci sfugge. Noi pensiamo semplicemente che l'azione di difesa sia una parentesi tra due azioni di attacco per i grandi attaccanti, come indubbiamente Ray Allen è. Ma se marchi Kobe Bryant e sei in finale, non è esattamente così. Per chiudere, la parola chiave è intensità, emotività di questa finale, ma un'altra parola parecchio importante credo che a questo punto, alla vigilia di gara 5, stanotte alle 2, un'altra parola chiave sia energia. Chi ne ha ancora? Sì, sia energia, e quindi è possibile che succeda quello che è successo durante la serie contro i Phoenix Suns, quando in gara 4 i Phoenix Suns hanno avuto nel quarto periodo grandissime risposte dalla loro panchina, proprio come è successo in gara 4 per i Boston Celtics contro i Lakers. Nella partita successiva Phil Jackson ha ridato minuti a uomini della sua panchina che non li avevano avuti fino a quel punto, proprio per cercare di arrivare al quarto periodo con il livello dell'energia più alto. Io penso che possa succedere, però molto dipende anche dalle condizioni di Bynum, perché se Bynum è malmesso, come era davvero malmesso in gara 4, nonostante il fatto che gli sia stato aspirato dopo gara 4 del liquido dal ginocchio, e allora c'è virtualmente un uomo in meno da ruotare dalla panchina, e questo può essere un problema. Sentiamo questa notte. Grazie, sir. Ciao, Flavio. Flavio tranquillo questo. E per Bulleri, poi Maciulis si apre per far girare il pallone Mancinelli contro di lui, il neo entrato Thomas Res Morrow contro Domerkant, poi Bulleri le finte su Zizis, rischia di perdere il pallone, lo raccoglie Arnold che attacca Lavrinovic. Benissimo con lui Lavrinovic, l'ha stoppata nel rituale. Questa è, non era Flavio Tranquillo naturalmente, ma questa è la telecronaca di Sky di Jerry De Rosa per la finale scudetto italiana, 32-28, 7-35 alla chiusura del secondo quarto di gioco. Si chiude invece l'impressione Germania-Australia, perché dopo Podolski segna Miroslav Klose, 2-0 per la Germania sull'Australia, ma per breaking news su fine primo tempo e fine partita ai mondiali lascio la parola alla redazione. Per quanto riguarda invece la finale di basket, già nei GR della sera saprete tutto. Grazie a Fabio Cantadori per il lavoro in redazione, a Giorgio De Luca in regia. Domani alle 2, dalle 2 alle 3 c'è Gigi Garanzini. Per quanto mi riguarda, domani sera per vivere insieme la partita d'Italia dalle 9 alle 11 e mezza con voi naturalmente. A domani.